24, i gialli della storia. Il mito di Marie Curie, la piccola signora fragile vestita di nero che lavora giorno e notte, è assolutamente falso. Si associano Marie Curie, la radioattività, il reattore nucleare, la bomba atomica, mentre tutta la storia è piuttosto complessa e delicata. Metteva la passione in tutto quello che faceva e credo che fosse soprattutto questo a sostenerla. Madame Curie è una donna dal destino eccezionale con una grande passione per la scienza e per l'umanità. Una giovane polacca animata da una volontà di ferro che alla fine dell'Ottocento lascia Varsavia per Parigi sfidando tutti i pregiudizi pur di realizzare il suo sogno, consacrarsi alla scienza. È la prima donna a insegnare alla Sorbona, l'unica donna a ricevere due premi Nobel per la fisica e per la chimica. Ma chi era veramente Madame Curie? Oggi su Mix 24 raccontiamo la sua vita, la sua carriera, con le testimonianze delle storiche Christine Baird e Bernadette Benside Vincent, il fisico Étienne Klein e la nipote Hélène Langevin Joliot. 7 novembre 1867. Maria Sklodowska nasce in una Polonia assoggettata, smembrata dai suoi potenti vicini, la Prussia, l'Austria e la Russia. Come i fratelli e le sorelle, anche Marie riceve una solida istruzione, aperta al mondo delle lettere e delle scienze. Dopo aver terminato con successo gli studi secondari, la giovane si sente attratta da una nuova concezione del mondo che si sta diffondendo in Europa, il positivismo, una filosofia in cui scienza, progresso e umanesimo sono intimamente legati. Maria Sklodowska vorrebbe continuare a studiare, ma in Polonia alle ragazze non è permesso accedere all'università. Allora fa un patto con la sorella Bronia. Decisi che avrei lasciato Varsavia per andare a fare l'istitutrice in una famiglia di provincia. Alloggiata e nutrita, potevo mettere da parte fino a 400 rubli l'anno. Era del tutto naturale che la maggiore andasse per prima a studiare a Parigi. Speravamo che un giorno avrei potuto raggiungerla. A 18 anni, Maria Sklodowska si trasferisce presso gli Zorawski, una famiglia di proprietari terrieri a Sztuki, nel nord-est della Polonia. Dopo questi 3 anni di torpore provinciale, Maria Sklodowska ritrova Varsavia e la sua famiglia. Grazie a un cugino che è stato assistente del grande scienziato russo Mendeleev, entra per la prima volta in un laboratorio. Nell'autunno 1891, Maria è pronta a partire. A 24 anni può finalmente riunirsi alla sorella Bronia a Parigi. Lasciata una Polonia in cui non esistono le minime libertà fondamentali, si tuffa nella vita parigina. Finalmente ha raggiunto l'oggetto di tutti i suoi sogni e di tutte le sue speranze, la Francia repubblicana, in cui arde la fiamma del sapere. Scopre il paese di Auguste Comte, il padre del positivismo, di Louis Pasteur, di Victor Hugo. All'inizio Marie va a vivere con sua sorella e con suo cognato. Si accorge che sono deliziosi, che sono pronti ad aiutarla e che l'aiutano in tutto, ma così non riesce a lavorare a tempo pieno e perciò si trasferisce in una piccola mansarda e lavora come credo non abbia mai più lavorato in seguito, con risultati brillanti, perché è la prima nella licenza di fisica e la seconda nella licenza di matematica e ovviamente viene notata. La promettente studentessa viene notata e la società per l'incoraggiamento per l'industria nazionale le assegna l'incarico di condurre uno studio sulle proprietà magnetiche di diversi metalli. Un professore le consiglia allora di prendere contatti con un fisico che lavora nello stesso campo, un certo Pierre Curie, un incontro che segnerà le loro vite. Maria, che è molto legata alla sua famiglia, torna a Varsavia. Vuole mettersi a insegnare per partecipare attivamente all'emancipazione della Polonia. Da Parigi Pierre Curie le scrive. Sarebbe una bella cosa alla quale non oso credere, passare la vita l'uno accanto all'altra, ipnotizzati dai nostri sogni. Il vostro sogno patriottico, il nostro sogno umanitario e il nostro sogno scientifico. Nel 1895, in un laboratorio tedesco, si verifica un evento cruciale. Il fisico Wilhelm Röntgen scopre i raggi X. Un anno dopo, in Francia, Henri Becquerel osserva che una lastra fotografica messa in contatto con dei sali d'uranio viene impressionata senza essere stata esposta alla luce del sole. 5 anni dopo il suo arrivo a Parigi, la studentessa emerita accetta la sfida e si dedica ad esplorare le misteriose radiazioni. Il direttore della Scuola di Fisica e Chimica Industriale le mette a disposizione un laboratorio con le pareti di vetro, dotato di qualche tavolo consunto, una vecchia stufa di ghisa e una lavagna. Al Museo di Storia Naturale, a pochi passi dal suo laboratorio di fortuna, Marie Curie si procura un gran numero di metalli, sali, ossidi e minerali per misurarne le radiazioni. Ma la giovane fisica non dispone ancora di un vero protocollo di ricerca. Le scoperte di Pierre e Jacques Curie sulle debolissime cariche elettriche emesse dal quarzo, che verranno utilizzate in seguito nei sonar e negli orologi elettrici, saranno determinanti nello studio delle radiazioni dell'uranio. Per lunghe settimane Marie Curie misura le radiazioni dei diversi campioni che ha selezionato. I componenti dell'uranio studiati sono attivi, ma un minerale in particolare, la PEC-Blenda, lo è molto più di tutti gli altri. La PEC-Blenda, un minerale contenente uranio usato tradizionalmente per colorare il cristallo, emette delle radiazioni molto più potenti di quelle dell'uranio semplice. Questo risultato sorprende Marie Curie. Controlla e ricontrolla le apparecchiature e si chiede: ma che cosa succede? Marie si convince che non è un errore, che è proprio così, e a quel punto Pierre sta già pensando che dietro tutto questo c'è un fenomeno di tale portata da richiedere il lavoro di entrambi. Ma è Marie da sola che pubblica la prima nota al resoconto dell'Accademia delle Scienze con questa frase: tutto porta a credere che ci sia un altro elemento molto più attivo dell'uranio. Pierre Curie, scienziato di fama, ha voluto che Marie firmasse da sola questo primo resoconto, sconvolgendo così le convenzioni di un'epoca in cui è impensabile che una donna possa conseguire un risultato in campo scientifico. Insieme al marito Pierre, Marie Curie cerca di isolare la sostanza contenuta nella PEC-Blenda, elemento chimico sconosciuto nella tavola di Mendeleev. Marie e Pierre Curie ricevono l'appoggio di Gustave Bemont, un chimico esperto. Tutti e tre si accorgono che i loro campioni contengono qualcosa di ancora più attivo del polonio. Questo nuovo elemento chimico, dall'irradiamento 900 volte più potente dell'uranio, lo battezzano invece radio. Per convincere gli scettici, i Curie devono ottenere una quantità significativa di radio puro per studiarne le caratteristiche chimiche. Passano 3 anni di lavoro. Alla fine, nel luglio 1902, Marie Curie ottiene un decigrammo di cloruro di radio che le permette di inserire, senza contestazioni possibili, l'elemento radio nella tavola di Mendeleev, il riferimento universale per la classificazione degli elementi chimici noti. Diventava necessario trovare un termine nuovo per definire la proprietà manifestata dagli elementi uranio, polonio e radio. Proposi la parola radioattività. Il nuovo secolo è iniziato, ma per il grande pubblico ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire la radioattività. All'Esposizione Universale di Parigi del 1900 l'attrazione principale è il padiglione dell'elettricità. Si celebrano la luce, il sogno, le tecniche della comunicazione e nasce un nuovo immaginario collettivo. In questo scorcio di inizio secolo, Madame Curie riceve l'incarico di insegnare alla Scuola Normale Superiore per Fanciulle di Sèvres. La sua tesi di dottorato, Ricerche sulle sostanze radioattive, le vale una mansione speciale. e nel 1903 Madame Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel ricevono il premio Nobel per la fisica per le loro ricerche sui fenomeni radioattivi. Giovedì 19 aprile 1906. Pierre Curie muore in un incidente stradale. Marie, cui è nata da poco la seconda figlia, Eve, è distrutta. Qualche mese dopo il dramma, Marie Curie riprende la cattedra del marito alla Sorbona. Nel novembre 1906 tiene la lezione inaugurale. Diventa così la prima donna a insegnare alla Sorbona. Nel 1910, con l'aiuto del professor André de Bierne, Marie Curie riesce a isolare un grammo di radiometallo puro un milione di volte più attivo dell'uranio. Pubblica il suo Trattato di radioattività, che diventa subito, e resta tuttora, un testo fondamentale in campo scientifico. 12 anni dopo la scoperta del radio, a 43 anni, Marie Curie è uno dei fisici più importanti del suo tempo. Qualche mese dopo scoppia l'affare Langevin. Un giornale di estrema destra scrive: un romanzo in un laboratorio. Il cuore di una donna ha delle aspirazioni che la scienza non basta a soddisfare. Il grande studioso Paul Langevin abbandona la moglie e i figli. L'altra rinuncia al suo laboratorio e alla gloria. Proprio al culmine dell'affare Langevin, Madame Curie viene a sapere che sta per ricevere un secondo premio Nobel. La laureata arriva in Svezia il 10 dicembre. Durante la cerimonia all'Accademia della Musica riceve dalle mani di Re Gustavo V il premio che corona i suoi lavori sul radio. Introducendo la sua conferenza e per mettere fine alle polemiche, dichiara: tengo a ricordare che il lavoro chimico, che aveva come scopo di caratterizzare il radio come un elemento nuovo, è stato effettuato specialmente da me, ma è intimamente legato all'opera comune iniziata con Pierre Curie. Ma se la Svezia celebra Marie Curie e il suo genio, la stampa francese accoglie questo secondo premio Nobel con un silenzio assordante. Il 1911 è stato per lei un anno durissimo. I sentimenti e i nervi di Marie Curie sono stati messi a dura prova. Come se non bastasse, i medici le diagnosticano una grave malattia renale. La scienziata viene sottoposta ad un intervento chirurgico che la obbliga a una lunga convalescenza. Tuttavia, continua a seguire con passione il lavoro dei fisici anglosassoni. La risposta all'enigma, da dove vengono le radiazioni radioattive, arriva, dopo 10 anni di ricerca, da Ernest Rutherford. Rutherford capisce che l'atomo non è un'entità piena, non è una sferetta di materia, ma è al contrario un edificio composito, che è composto soprattutto da vuoto. In un atomo c'è innanzitutto il nucleo dell'atomo, di dimensioni veramente minime, un milionesimo di miliardesimo di metro. E poi, molto lontano dal nucleo, ci sono gli elettroni che girano. In realtà la radioattività è un fenomeno che si produce o che si origina unicamente nel nucleo. È un fenomeno fisico, non chimico. I fenomeni chimici sono quelli che mettono in gioco gli elettroni che girano attorno al nucleo dell'atomo. Ed è qui che ha luogo la radioattività, dove ci sono forze nuove che operano, le forze dette appunto nucleari. Ecco cos'è la radioattività. La scoperta di queste forze che animano il nucleo, che sono all'origine delle teorie della fisica nucleare, danno forza al sogno di Marie Curie: costruire un istituto del radio, una grande istituzione di servizio pubblico. Poi nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Marie Curie dedica tutte le sue forze all'organizzazione di servizi radiologici pionieristici negli ospedali militari. Le ferite provocate dagli obici a proiettili cavi, gli shrapnel, necessitano una localizzazione precisa dei danni. Con l'aiuto della Croce Rossa ho creato una prima ambulanza radiologica. Poi ho attrezzato 20 ambulanze radiologiche per l'esercito. I chirurghi che ho incontrato si rendevano subito conto dell'utilità dell'esame radiologico, anche se fino a quel momento ne ignoravano l'esistenza. La figlia Irene, spinta dal bisogno imperioso di rendersi utile, finalmente raggiunge la madre. A soli 18 anni si vede affidare la responsabilità del servizio radiografico di un ospedale anglo-belga a qualche chilometro dal fronte. Nonostante l'impegno dei medici al fronte e nonostante il fatto che gli esami preoperatori cui lei ha contribuito in maniera così decisiva permettano di salvare migliaia di vite, Marie Curie resta sconvolta da una simile ecatombe. A guerra finita, la Francia è in ginocchio. A Parigi un compito immenso assorbirà d'ora in poi tutte le energie di Marie Curie. Rilanciare l'Istituto del Radio, inaugurato alla vigilia della guerra, e attrezzare i laboratori destinati a nuove branche di ricerca attorno alla radioattività e alle sue applicazioni. L'Istituto del Radio è stata una conquista difficile. Bisogna rendersi conto che la Francia era un paese distrutto. Quando inizia la sua attività, l'Istituto del Radio praticamente non ha mezzi. I primi 3 anni sono fonte di preoccupazioni notevoli per Marie, perché c'è appena quanto basta a fare degli esperimenti e a scaldare i locali. Fingendo di non vedere un avviso attaccato alla porta, la signora Curie non desidera firmare autografi né ritratti, perciò si prega di non disturbare. Una giornalista americana, Miss Meloni, riesce ad entrare nel suo studio. Nel maggio 1921, accompagnata dalle figlie e da Miss Meloni, Marie Curie sbarca nel nuovo mondo. La donna più celebre del mondo, come la definisce Miss Meloni, viene invitata alla Casa Bianca e riceve, dalle mani del presidente Harding, un grammo di radio finanziato dalle collette delle donne americane. A Pittsburgh, in Pennsylvania, dove stringe contatti preziosi con il mondo imprenditoriale, nota con orgoglio che i procedimenti che ha messo a punto per isolare il radio sono utilizzati a uno stadio industriale. A Chicago, in Michigan, l'importante comunità polacca la accoglie con calore. Ma questa maratona di 6 settimane, in cui si susseguono conferenze, visite e raduni, si rivela massacrante. La sua salute si deteriora ulteriormente. All'inizio degli anni 20 l'economia riparte. A Marie Curie cominciano ad arrivare donazioni private in natura e in materiali. L'Istituto del Radio si sviluppa rapidamente. Al suo interno si fronteggiano 2 padiglioni. Uno è destinato allo studio fisico-chimico delle radiazioni, l'altro al loro studio biologico. Le virtù terapeutiche del radio per distruggere i tumori maligni sono note da anni, ma c'è ancora molto da fare prima di riuscire a padroneggiarne l'utilizzo. A metà degli anni 20 l'estrazione del radio si intensifica negli Stati Uniti, nel Canada, ma soprattutto nel Congo belga. Quando esce dalle fabbriche e dai laboratori, il radio diventa quasi un oggetto mitologico. Gli vengono attribuite virtù di ogni tipo. A breve però si sveleranno anche gli effetti negativi del radio. Prima di essere vietato nel 1937 e di essere riservato al solo uso medico, il radio provocherà centinaia di morti. 10 anni dopo la difficile ripresa del primo dopoguerra, Marie Curie ha fatto dell'Istituto del Radio una scuola internazionale della radioattività, dove arrivano ricercatori e tecnici dal mondo intero. Inoltre Marie Curie sarà a lungo l'unica donna a partecipare ai cosiddetti consigli di fisica e di chimica, creati nel 1911 da un industriale belga, Ernest Solvay. Antenati dei moderni convegni scientifici, questi consigli permettono progressi decisivi nel campo della fisica moderna, grazie al contributo di studiosi di primo piano, tra cui 40 premi Nobel. È proprio nei consigli Solvay che alla fine degli anni 20 Albert Einstein, Niels Bohr e altri elaborano la nuova fisica quantistica che permetterà di addentrarsi nell'atomo e nelle particelle. Marie Curie e Albert Einstein in realtà non si trovano a collaborare su queste questioni teoriche, ma allorché all'orizzonte si profila una nuova catastrofe, si arruolano entrambi nella Commissione Internazionale di Cooperazione Intellettuale, un organismo della Società delle Nazioni destinato a promuovere e sostenere le attività in favore della cultura, della scienza e della pace. Marie Curie disse più o meno: Si parla del fallimento della scienza, ma la scienza è opera dell'uomo e di conseguenza non è un'opera perfetta. E aggiungeva, la scienza è stata spesso portata lontano dalla sua strada, dall'egoismo nazionale e dalla regressione sociale. E se anche Marie Curie non ha preteso che gli scienziati manifestassero in massa per difendere le sue idee, l'idea non le sarebbe affatto dispiaciuta. Il 29 giugno 1934 Marie Curie viene ricoverata in condizioni critiche al sanatorio di Saint-Sélemons, di fronte al Monte Bianco. Il 4 luglio del 34 Marie Curie si spegne a 67 anni. La sua ultima battaglia, istituzionalizzare la ricerca, vedrà un primo risultato nel 36 con la creazione da parte del Fronte Popolare di un Ministero della Ricerca che sarà affidato a sua figlia. Nel 35 Irène di Frédéric Joly Curie ricevono il premio Nobel per aver scoperto la radioattività artificiale, perfettamente coscienti del suo potenziale energetico, ma anche del pericolo che comporta. Nel 38 la scoperta della fissione nucleare scatena la folle corsa al dominio dell'atomo. Con la bomba atomica, l'avventura, se posso dire così, è finita male. D'altra parte, ha dato vita a tutta la ricerca della fisica del XX secolo. Nel dopoguerra, in Francia, viene creato il Commissariato per l'Energia Atomica, con finalità civili e militari. Un organismo al cui interno i ricercatori lavorano oggi in modo radicalmente diverso da quello dell'epoca di Marie Curie. I massicci programmi d'armamento, oppure legati all'energia, a gran parte dell'opinione pubblica fanno dimenticare le applicazioni della radioattività in medicina, in biologia, ma anche nella datazione, nello studio della formazione della Terra, delle stelle e dell'universo. Le catastrofi nucleari degli ultimi decenni gettano costantemente un'ombra su una disciplina scientifica fondamentale del XX secolo. Nei primi anni 30 del XX secolo, Marie Sklodowska-Curie, infrangendo molti tabù, ha spalancato le porte di un nuovo campo del sapere. La sua libertà, la dimensione etica, universale della sua opera, rimangono un monito sulla grandezza e sul costante impegno della scienza, ma anche sul rischio perenne di un ritorno alla regressione e all'oscurantismo. Io sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.